Trasponiti, non ce la faccio più. Fastidio per la quinta minore e poi cromatico. Ma questo non lo sai, se pensi all'unisono tu. Cristo, svegliati. Sei fermo come un mulo. Corale, se mi passi la frase, dai. Che bello quando tu eri fiero, armonico come nel motoretto, ionico, tonico, successioni abbreviate dell'inerzia che ti ha tolto la vita, ti ha tolto la vita. Io ricordo quando da un'idea rimandavi voci e timbri della tua natura, timbri e voci della tua natura. Dov'è il suono? Perché non c'è il suono? Io ricordo quando da un'idea rimandavi voci e timbri della tua natura.